che fendono il sipario della notte, che frugano nei miei pensieri andati e non li posso fermare un istante. S'arrotola l'aurora sulle cime della vita, le mille volte ancora che ti penso sono come un concerto di nostalgia. Siamo stati incompresi o forse eravamo distanti. Se ti siedi qui accanto sentirai il calore di quando noi riuscivamo a inventarci una storia soltanto guardando dentro ai nostri occhi lucidi, dove navigavano i nostri sogni, spinti dallo spirito del vento. Ma noi no, non siamo stati mai la preda del vortice del non sapersi amare e del contatto che non fa respirare. Spiragli, continue vie d'uscita, hanno tracciato il tempo del nostro amore così puro. Senti ancora quella brezza intensa che ci avvolgeva mentre ci abbracciavamo. Io lo so che tu mi pensi ancora così, ed io ti penso ancora, ti penso proprio ora. Sento la tua presenza, sento la tua presenza. Senza te, senza te, questa mia vita bagliori che accarezzano le stelle. In questa notte senza veli, nella camera socchiusa dei pensieri, bagliori di una speranza che soffita, si desta come una conchiglia trasportata in fondo al mare.